Nel 2011 il nostro rapporto debito-PIL era pari al 116%, mentre oggi, secondo gli ultimi dati di stima per il 2017, dovrebbe attestarsi circa al 132%. Questo cosa vuol dire? Che nonostante le politiche, diciamo, di austerity che sono state fatte dal 2011 in avanti, interrotte soltanto nel 2017, dove si è avuta, diciamo, non certo una politica di tipo espansivo, ma un rallentamento delle politiche di tipo restrittivo, e beh, a fronte di questo sforzo in realtà il rapporto è aumentato. Perché è aumentato? Perché evidentemente, come peraltro moltissimi anche economisti, osservatori avevano avvertito, diciamo, durante quell'estate calda del 2011 e negli anni successivi, nel momento in cui si va a ridurre il disavanzo pubblico soprattutto tramite tagli alla spesa, tramite un mix naturalmente di tagli alla spesa e aumenti alle tasse, ma è ovvio che la prima misura ha avuto la prevalenza, e beh, si va a ridurre il prodotto interno lordo più velocemente di quanto venga ridotto il deficit. E questo per una ragione banalmente, diciamo, aritmetica, fa sì che il rapporto debito-PIL aumenti invece di diminuire, proprio perché il denominatore della frazione diminuisce a sua volta. Ora, perché questo è importante? Perché in realtà da quest'anno in avanti, secondo quelli che sono i parametri adottati dalla Commissione Europea per la valutazione delle politiche fiscali dei Paesi membri dell'area euro, l'Italia dovrebbe, diciamo, iniziare a fare contenimento del disavanzo. L'ultima, diciamo, bozza di programma fiscale per il 2018 che è stata valutata dalla Commissione Europea contiene in realtà ancora un possibile aumento del deficit rispetto a quello che era stato pattuito l'anno scorso, ma comunque ci attestiamo sempre su un dato inferiore al 2% nel rapporto deficit-PIL programmato per il 2018, e come dire, questo dovrebbe essere l'anno in cui questa fase termina, fase che, come dicevo prima, è una fase di rallentamento delle politiche di contenimento del disavanzo. Quindi sebbene, diciamo, negli ultimi due governi abbiano comunque comunicato l'idea che si stavano facendo politiche espansive, in realtà quello che si stava facendo era rallentare il ritmo dei tagli sostanzialmente, e lo si è fatto, ma appunto secondo i parametri europei questa fase deve terminare. Perché deve terminare? Perché esiste un complesso di regole che vanno sotto diciamo l'ombrello del patto di stabilità e crescita riformato nel 2005, che praticamente per ogni anno calcolano il cosiddetto PIL potenziale dei paesi, cioè il prodotto interno lordo che sarebbe realizzato da un paese se tutta la forza lavoro e tutti gli impianti fossero utilizzati nel pieno delle loro capacità, che però non significa nell'idea europea che sia questo un livello che coincide con la piena occupazione dei lavoratori, perché secondo quella che è la definizione di piena occupazione, diciamo, adottata dalla Commissione Europea, questo sarebbe quel particolare tasso di disoccupazione che fa sì che l'inflazione non aumenti. Quindi si tratta sostanzialmente di ipotizzare che tutte le economie non possano scendere al di sotto di un certo tasso di disoccupazione, perché altrimenti poi l'inflazione cresce. Finché quel tasso di disoccupazione non viene raggiunto, perché è più alto, allora i paesi possono continuare, diciamo, a fare spesa in deficit. Quando quel tasso viene raggiunto, i paesi non possono fare spesa in deficit. Se addirittura come dire, l'economia sta viaggiando più velocemente, tra virgolette, rispetto a quel livello di prodotto potenziale, i paesi devono addirittura tagliare. E come dire, in base a quelle che sono le regole europee, è questo il momento di iniziare, diciamo, a partire dal 2019. E questo significa che se in questi ultimi due anni abbiamo avuto come economia una sorta di fase di respiro, perché il PIL è cresciuto leggermente anche per motivazioni che vanno al di là della politica degli ultimi governi, ci aspetta a politiche invariate, quindi se rispettiamo esattamente quelli che sono i dettami che vengono da Bruxelles, una fase di ulteriore austerity. E appunto, se guardiamo a quello che è accaduto dal 2011 al 2017, ci rendiamo conto che quelle politiche non hanno funzionato come dovevano, perché dovevano portare a una riduzione di questo rapporto debito-PIL, nella speranza che se nonostante andava a tagliare la spesa pubblica, e questo era una misura evidentemente recessiva e depressiva per l'economia, ci sarebbe stato comunque un effetto, come dire, di fiducia presso le imprese, che avrebbe portato a maggiori investimenti e che avrebbe quindi consentito di compensare questo effetto recessivo. Ora, questo non è assolutamente avvenuto, addirittura, come sappiamo, insomma, i teorici di questo meccanismo venivano chiamati teorici dell'austerità espansiva, e che appunto non è stata affatto espansiva. E quello che appare preoccupante è il fatto che appunto se in questi ultimi due anni, in parte per negoziati in cui gli ultimi governi si sono impegnati, in parte per fattori che vengono un po' dalla domanda globale e da come sta andando l'economia nel mondo in generale, se adesso ricominciamo a fare di nuovo contenimento del disavanzo fiscale, sicuramente non può andar bene. E peraltro il problema è che dal momento che le regole europee condannano quei paesi che hanno un rapporto debito-PIL più alto, si rischia di finire in una spirale nella quale appunto quello che avviene è che i governi sono costretti a spendere ancora di meno proprio quando ce ne sarebbe più bisogno. Ecco, ma visto il fallimento conclamato di queste politiche, volevo capire meglio con te se i parametri europei, l'Europa dice anche nel concreto che misure adottare, o se questa è l'interpretazione dei singoli stati che può tentare arrivare all'obiettivo in un modo diverso, e quindi si può tentare di farlo in un modo diverso. Si potrebbe tentare di farlo in un modo diverso, ad esempio c'è il caso del Portogallo negli ultimi anni che è molto interessante, perché si tratta di un governo che ha rifiutato, diciamo, di operare tagli lineari alla spesa, di ridurre quelle che sono le spese sociali, le spese per investimenti pubblici. Quello che però è vero e comunque è, diciamo, da un punto di vista politico problematico, è il fatto che nel momento in cui ad esempio il governo italiano dovesse trovarsi a rifiutare di operare questo tipo di politiche, quindi di cercare di distribuire in maniera diversa la spesa, magari aumentando le tasse sui redditi più alti, eccetera, se ci fossero effetti non previsti sul gettito, perché non si riuscisse ad esempio a riscuotere le tasse come si pensava di poter fare in uno scenario programmatico, a quel punto i governi sono costretti a fare contenimento della spesa e, come diciamo, ci si è trovati a fare negli ultimi anni, si deve poi andare o a effettuare privatizzazioni oppure a tagliare la spesa, anche quella che non si voleva, proprio per rientrare in questi parametri. Per cui in realtà, diciamo, l'unica politica possibile è quella comunque di andare a negoziare dei parametri differenti per le politiche fiscali italiane, che è stato fatto anche dalla Spagna e dalla Francia negli ultimi anni, soprattutto dalla Spagna, che ha beneficiato comunque di deficit molto maggiori dei nostri, anche che sono arrivati al 6% del PIL. Lo hanno negoziato appunto facendo leva sul fatto che la situazione sociale era davvero davvero problematica, e la Spagna poteva risultare un caso rischioso per la tenuta dell'intera eurozona. Ecco, l'Italia, con quelli che sono i suoi dati sul mercato del lavoro, dati economici e anche alla luce del risultato delle ultime elezioni, si trova anch'essa in questa fase, e è davvero plausibile che l'unica possibilità di operare una politica che non sia una politica recessiva di fronte a tutto quello che abbiamo detto sia quella di cercare di negoziare parametri differenti e comunque di fare in modo che il contenimento del disavanzo non inizi dal 2019, per cui in un modo o nell'altro un governo che voglia difendere un po' in un certo senso la coesione sociale deve pensare di in qualche modo esondare da questi parametri.